GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il sequestro di 3 giovani indiani ad opera di 2 pakistani arrestati, caso isolato, spiegano questura e associazioni. Via i segni del passaggio dei migranti al Silos di Trieste. A fine mese la cessione a un immobiliare carinziano. Iniziato Pordenone Legge, festa dei libri e della libertà. Nostra intervista allo scrittore israeliano Eshkol Nevo. Fiamme nel cuore della notte in un condominio di Trieste. 6 intossicati lievi, 2 alloggi dichiarati inagibili. Riapre la strada della Val Pesarina dopo la frana di agosto. Ponte sul Fella, lavori al via entro la prossima estate. 100 nuovi posti auto a Trieste per alleviare la carenza di parcheggi in città dopo la chiusura del Molo Quarto. 12:31 minuti, buongiorno da Daniele Lettige e Rita Micoli. Sequestro e tentata estorsione di migranti ai danni di altri migranti appena arrivati a Trieste. Per le associazioni che assistono gli stranieri della rotta balcanica si tratta di un caso isolato e lo confermano le indagini della questura del capoluogo giuliano. Nella palazzina di Via della Fabbrica a Trieste troviamo il proprietario intento a cambiare la serratura dell'appartamento dove 3 giovani indiani 3 giorni fa erano stati sequestrati, picchiati, chiusi per 24 ore. Gli aguzzini, 2 pakistani richiedenti asilo che avevano chiesto un riscatto di 15.000 euro alle famiglie. Il proprietario dell'immobile è un giovane straniero che aveva affittato la casa un anno fa con regolare contratto ad un pakistano, una brava persona, racconta, che lavora nelle campagne di Pordenone e ha sempre pagato l'affitto. Non sa come mai altre persone siano subentrate nell'appartamento, ci racconta il ragazzo. La squadra mobile di Trieste e l'ufficio prevenzione generale della questura hanno risolto il caso in pochissime ore dopo la denuncia di una donna che aveva chiesto aiuto. Siamo con il questore di Trieste Pietro Stuni e ci domandiamo se questo sequestro a scopo di estorsione è un modus operandi a Trieste oppure se è un caso isolato. Intanto abbiamo risolto questo caso, sono contento perché i ragazzi della squadra mobile dell'ufficio prevenzione generale diretti dalla procura hanno risolto in brevissimo tempo questo caso veramente brutto, insomma, di 3 giovani indiani che erano venuti qua, arrivati qua, si sono affidati a una persona che si era proposto di aiutarli, invece anziché aiutarli li ha portati in un appartamento dove li teneva sequestrati insieme a un suo connazionale. Quindi è un fatto che abbiamo certificato e riscontrato, tutto si è svolto nel giro di pochissime ore e devo dire che chi ha lavorato veramente bene. Potrebbero esserci altre situazioni così a Trieste? Ma guardi, noi su queste cose non abbassiamo mai l'attenzione. Adesso abbiamo scoperto questa cosa, è chiaro che noi tutti i fenomeni criminosi li teniamo sempre attenzionati. Io spero sempre di no, le cose negative spero che non si verifichino ulteriormente, però devo dire che comunque ci siamo, come abbiamo dimostrato tantissime volte, accadono fatti anche importanti, però le risposte delle forze dell'ordine, sempre dirette dalla procura, sono molto tempestive. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. È iniziata la bonifica del Silos di Trieste, l'edificio in abbandono accanto alla stazione ferroviaria che negli ultimi anni era diventato il rifugio di emergenza per migliaia di migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Il passaggio di proprietà del capannone da Coop Alleanza 3.0 a un'immobiliare austriaca dovrebbe essere perfezionato a fine mese. Una tenda sopra l'altra, i resti di esistenze sommerse, quali erano quelle dei migranti che per mesi riparavano il silos, tutto ciò alle ore contate. Dopo aver già effettuato 9 cicli di deratizzazione durante i mesi estivi, è partito l'intervento di sanificazione e bonifica dei 22.000 metri quadri dell'edificio e di 20.000 metri quadri delle superfici esterne, per i quali Coop Alleanza 3.0 ha già firmato un preliminare di vendita con un immobiliarista austriaco di Klagenfurt. Innanzitutto le squadre dell'impresa specializzata hanno iniziato a sanificare con il disinfettante tutti gli ambienti, poi con i Bobcat si procederà ad asportare i rifiuti ammucchiati. La parte più impegnativa di questo intervento, che durerà dalle 2 alle 3 settimane per un costo stimato di 200.000 euro, è quella dello sfalcio e della sanificazione degli spazi verdi che sono stati usati come latrine. Nell'ampia area scoperta ci sono inoltre molti masegni caduti dall'edificio fatiscente che rimane vincolato dalla sovrintendenza e con esso anche le pietre di arenaria che andranno recuperate. Nico Costa, consigliere di amministrazione di Coop Alleanza 3.0. Abbiamo dovuto selezionare l'operatore incaricato, quantificare il costo dell'operazione, che è sicuramente importante, però siamo soddisfatti di poter restituire un bene in condizioni, diciamo, di agibilità. C'è stato un preliminare di vendita, può dirci qualcosa di più circa i tempi? Sul contratto preliminare avete scritto e avete detto, io non aggiungo, non confermo e non smentisco, incrociamo le dita perché è chiaro che questo è un intervento importante per la città prima di tutto. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, erano circa le 2 di notte quando è scattato un allarme incendio a Trieste in un appartamento al primo piano di uno stabile di 5 piani di piazza tra i rivi. I vigili del fuoco sono intervenuti con 3 squadre, un'autobotte, un'autoscala, una piattaforma. Raggiunto l'appartamento, dopo aver verificato che all'interno non vi fossero persone, sono iniziate le operazioni di spegnimento. Altri vigili del fuoco hanno provveduto all'evacuazione per motivi di sicurezza dell'intero stabile, accompagnando alcuni condomini, facendo loro indossare i cappucci di evacuazione collegati agli autorespiratori lungo le scale invase dal fumo. Il personale sanitario ha visitato 14 persone, 6 sono state trasportate all'ospedale con leggeri sintomi da intossicazione. L'appartamento interessato dall'incendio e quello soprastante sono stati dichiarati inagibili. L'attività commerciale sotto l'alloggio incendiato è invece temporaneamente inagibile fino a che non saranno effettuati i controlli a tutti gli impianti, ancora in fase di accertamento le cause del rogo. 5 lavoratori irregolari sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che ha contestato 21 violazioni sulla certificazione dei corrispettivi nell'ambito di un'attività di controlli mirati in alcune manifestazioni del fine settimana nel Friuli occidentale, tra cui Maracaibo a Chions e Birra che Passione a San Vito al Tagliamento. Dei 5 lavoratori irregolari, 3 erano del tutto in nero e 2 intermittenti irregolari. Uno di quelli in nero, cittadino italiano, è risultato beneficiario della NASPI, misura di sostegno al reddito riconosciuta ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente l'occupazione. Nelle stesse manifestazioni i militari hanno elevato 21 verbali di constatazione per l'omessa o intempestiva memorizzazione elettronica dei corrispettivi incassati. Da inizio anno le Fiamme Gialle nel Friuli occidentale hanno individuato 204 lavoratori in nero, 17 irregolari, e sanzionato 108 datori di lavoro proponendo la sospensione di 50 attività. Economia e agroalimentare, resiste per vendite ed export il prosciutto di San Daniele DOP dopo un 2003 che non è stato brillante per il settore dei salumi italiani. Nei primi 8 mesi di quest'anno le quantità di affettamento sono sugli stessi livelli degli anni precedenti, quasi 3 milioni prosciutti prodotti dalle aziende aderenti al consorzio. Il prodotto affettato in vaschetta contribuisce in modo significativo alla quota di export. Nel 2023 si è attestato intorno al 19%. Principali mercati di destinazione: la Francia, la Germania, gli Stati Uniti e l'Australia. La filiera è tutta italiana, composta da circa 30 aziende, ricorda Mario Emilio Cicchetti, direttore generale del consorzio. Di queste poco più della metà è rappresentato da grandi gruppi industriali, ai quali si aggiungono una decina di aziende familiari locali ed altre aziende di medie dimensioni monoproduttori. La cultura ha preso il via oggi Pordenone Legge. Fino a domenica la 25esima edizione del Grande Festival animerà il capoluogo della destra Tagliamento grazie agli incontri con scrittori, saggisti, filosofi, scienziati, giornalisti sui grandi temi della contemporaneità. Centinaia gli ospiti attesi e gli eventi in programma per una festa che da quest'anno si chiama Dei Libri e della Libertà. Pordenone Legge è cominciata sotto un bel sole con la prospettiva del bel tempo almeno fino alla sua conclusione domenica. Stasera alle 18:30 l'inaugurazione al Teatro Verdi con un ospite speciale, il cardinale Gianfranco Ravasi, che rifletterà sul tema in principio creazione ed ecologia, lui che di libri ne ha scritti diversi negli anni. Pordenone Legge non è più solo festa del libro ma anche festa della libertà da quest'anno, coerentemente con la linea che ha voluto imprimere il presidente della Fondazione Michelangelo Agrusti insieme al direttore artistico Gianmario Villalta. Nel corso dei 5 giorni arriveranno autori internazionali di peso come Richard Ford, Hasan Nafisi e Bernard Arie Lévy. ce ne sono molti altri importanti italiani, con un passaggio anche sulla poesia e attenzione al territorio. Prevista una presentazione relativa a Go 2025, capitale europea della cultura, che parteciperà alla fiera del libro di Francoforte di ottobre, in cui l'Italia è ospite d'onore. 344 gli eventi in tutto in questa Pordenone Legge, con 60 anteprime editoriali. Rai Media Partner, con una presenza di rilievo non solo nei notiziari, ma anche nei programmi regionali e nazionali. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E ancor prima dell'inaugurazione ufficiale, il primo ospite di questa 25esima edizione di Pordenone Legge, lo scrittore israeliano Eshkol Nevo. In Italia Eshkol Nevo ha riscosso il maggior successo dopo il suo paese, Israele. Qui un suo libro è diventato un film, Tre piani di Nanni Moretti. I feel extremely lucky. Mi sento estremamente fortunato come scrittore ad aver trovato una seconda casa dove posso essere accettato, dove posso essere letto in modo appassionato. Gli italiani, secondo me, comprendono la complessità del Medio Oriente, comprendono che non c'è in termini assoluti bene e male, non c'è soltanto il bianco e il nero. A Pordenone Legge Nevo ha incontrato insieme allo scrittore Tullio Avoledo i suoi lettori e i giovani delle scuole per presentare Legami, una raccolta di storie intime che parlano di amore, morte e desiderio. Li ha scritti e pubblicati in Israele prima degli attacchi del 7 ottobre, un giorno che rappresenta una cesura per il suo popolo. È interessante guardare la reazione da parte dei lettori prima e dopo il 7 ottobre, perché prima del 7 ottobre mi dicevano che l'esperienza di lettura era dolorosa, era come prendere un pugno nello stomaco. Invece dopo il 7 ottobre, esattamente lo stesso libro, esattamente gli stessi racconti, sono stati descritti come una carezza, una braccio che ti accoglie, qualcosa di confortante. Una delle sue tre figlie sta svolgendo il servizio militare, ma non ha un ruolo di combattimento, a differenza dei figli maschi dei suoi amici. So che non dormono di notte, non dormono da un anno, glielo vedo sul viso proprio che non sono in grado di dormire per quello che succede ai loro figli nell'esercito. È assolutamente una situazione di anormalità quella che abbiamo in Israele e a Gaza. Deve finire, deve esserci un cessate il fuoco, bisogna avere una visione per risolvere questo conflitto con un accordo di pace. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12:42:30 secondi il tempo, cielo da nuvoloso a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 20 gradi, vento a 53 km orari da est-nord-est, bora, con raffiche che hanno raggiunto gli 87 km orari. Mare molto mosso con temperatura di 21 gradi. A Udine 22 gradi, a Gorizia 21, a Pordenone 20, a Tolmezzo 20, a Forni di Sopra 15, a Piancavallo 13, a Tarvisio e Sappada 12 gradi. Sul Monte Zoncolan 7 gradi, sul Monte Lussari 4,5. Sulla costa a Lignano e Grado 21 gradi, temperatura del mare di 18 gradi in entrambe le località. Le previsioni dell'ARPA, oggi pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento. Soffierà bora sostenuta sulla costa, con raffiche anche di forte intensità sul Carso e a Trieste. In quota soffierà vento moderato da nord-est. Domani cielo in genere nuvoloso, con qualche debole pioggia nelle ore centrali della giornata in montagna e sulla fascia orientale. Soffierà bora sostenuta sulla costa, con raffiche anche di forte intensità sul Carso e a Trieste. In quota soffierà vento moderato da nord-est. La pagina della viabilità, partiamo dalla Val Pesarina, dove è riaperta la regionale 465 dopo la frana dello scorso agosto. 40 giorni dopo la frana che si è abbattuta sulla strada regionale 465 della Forcella alla Vardette, riapre la via di comunicazione che collega la Val Pesarina al Veneto e transitano i primi motociclisti. Il ghiaione a 200.000 metri cubi lungo il versante della montagna ad un lato della strada sarà d'ora in poi monitorato dai sensori della Protezione Civile. Il transito veicolare riprende a doppio senso con qualche limitazione di velocità, con un paio di settimane di ritardo rispetto a quanto preventivato, dovute al danneggiamento e alla sostituzione di un cavo elettrico della media tensione. Sul canalone c'è e ci sarà sempre ancora materiale ghiaioso, ma sono stati creati dei terrazzamenti di sicurezza ed è stato ripristinato l'alveo del rio per accogliere eventuali colate detritiche. Quasi terminata l'asfaltatura, ieri sono stati fatti brillare alcuni massi giudicati pericolosi. Lavori per 500.000 euro in totale, realizzati da FVG Strade e dalle tre ditte appaltatrici. La Protezione Civile ha installato un sistema di monitoraggio in grado di rilevare ogni accenno di movimento frenoso a monte della strada. Il segnale di allerta avvertirà il personale incaricato e farà chiudere in automatico due transenne che saranno installate oggi per impedire temporaneamente il transito dei mezzi. Più di un mese di isolamento dal Veneto ha creato qualche problema economico alle attività della zona. Qualcosa ho perso, ci dice un panettiere che riforniva il rifugio De Gasperi. Abbiamo risentito del mancato passaggio di chi viene dal Cadore e dei turisti che vengono qui da Sauris tramite la strada che va a Caserarazzo, aggiunge. Presente alla riapertura della strada l'assessore alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, la sindaca di Prato Carnico Erika Gonano, i tecnici e le maestranze che hanno lavorato in questi 40 giorni. Rimarrà infine chiuso per diversi mesi per lavori di consolidamento il ponte di accesso alla vallata venendo da Ovaro, necessario utilizzare il bypass temporaneo realizzato sul guado del torrente Degano. Prato Carnico, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Possibile via ai lavori per il nuovo ponte sul Fella sulla statale 52 entro l'estate del prossimo anno, lo ha detto l'assessore a infrastrutture e territorio Cristina Amirante, incontrando oggi a Udine i sindaci di Amaro e Venzone, Cristiana Mainardis e Mauro Valent, insieme al presidente di Friuli Venezia Giulia Strade Simone Bortolotti. L'opera è stata oggetto di screening di via che è già andato a buon fine, ha detto Amirante. Con l'atteso ok del Ministero dell'Ambiente, Friuli Venezia Giulia Strade completerà la progettazione per poter quindi procedere con la cantierabilità e la gara d'appalto. La struttura viaria che sostituirà il vecchio ponte è chiamata a collegare in maniera sicura e logisticamente funzionale i paesi di Venzone e Moggio Udinese sul versante del Canale del Ferro con Amaro in Carnia. L'importo complessivo stanziato è di 22 milioni e la durata stimata dei lavori è di circa 19 mesi. Sono un centinaio i posti del parcheggio di Via Gioia, inaugurato ufficialmente oggi a Trieste, a lato della stazione ferroviaria. Stalli a cui potrebbero aggiungersene altri in pochi mesi per far fronte almeno in parte alle difficoltà di parcheggio che sta attraversando la città. Potrebbe essere arrivato ad una svolta il vecchissimo problema dei parcheggi di Trieste, una questione che quest'estate ha raggiunto un punto critico con la frequente inaccessibilità delle rive per la presenza di navi da crociera e la chiusura lo scorso agosto del Molo Quarto. Questa mattina però è stato inaugurato in via ufficiale il park Via Gioia, 100 posti allestiti tra la stazione ferroviaria e il Silos, a fronte di circa 500.000 euro per l'investimento e un paio di mesi per la durata dei lavori. La tariffa oraria è di 1,60 euro all'ora, mentre il costo per 24 ore è di 14 euro. Una boccata d'aria per i residenti e i turisti, ma qui seguiranno altre iniziative. Innanzitutto quella degli investitori, gli austriaci della PVV Parking, che già progettano di ampliare la struttura ora inaugurata con una costruzione di due piani e oltre. Una soluzione che però richiederebbe anni, non solo per i cantieri, ma anche per i permessi necessari. Più rapide le intenzioni del sindaco Roberto Di Piazza, che oggi, nel corso della bonifica del Silos, ha notato l'enorme spazio adiacente all'edificio, che in tempi molto più rapidi potrebbe essere ripulito e allestito per compensare i 500 posti persi con la chiusura del Molo Quarto e il cantiere del parco lineare del Porto Vecchio. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. È indispensabile che ogni centro abitato del territorio disponga di abitazioni a favore della cosiddetta fascia grigia della popolazione, ovvero coloro che non rientrano nelle categorie sociali a cui è dedicata l'edilizia sovvenzionata e al contempo non riescono a rientrare nei canoni propri del mercato immobiliare. Lo ha detto l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Cristina Mirante, relativamente al bando in arrivo per l'assegnazione di 56 appartamenti realizzati tramite il Fondo Housing Sociale Friuli Venezia Giulia, sottoscritto dalla Regione nel complesso immobiliare di strada di Cattinara a Trieste. Tra i soggetti maggiormente interessati rientrano le giovani coppie, le persone anziane monoreddito e i lavoratori che si trasferiscono sul territorio per motivi professionali. Gli alloggi sono destinati prevalentemente alla locazione a canone convenzionato, in parte alla vendita convenzionata anche con formula affitto-riscatto al termine dei primi 8 anni di locazione. Distribuiti su 2 palazzine di 5 piani di nuova costruzione, sono realizzati in classe A4 e A3, secondo i più elevati standard di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale, con impianto fotovoltaico in copertura e un tetto green realizzato con erba naturale. Il bando, attivo da dopodomani giovedì 20 settembre, è disponibile sul sito www.housingsocialefvg.it. Manifestazione di interesse entro il 19 novembre. Prendersi cura degli anziani fragili attraverso l'arte di Caravaggio è il risultato ottenuto dalle opere che compongono la mostra transfrontaliera Ombre e Luci, visitabile da oggi a domenica a Sacile. L'arte di Caravaggio per prendersi cura dei più fragili. Nella mostra transfrontaliera itinerante Ombre e Luci, visitabile all'ospitale San Gregorio di Sacile fino al 22 settembre, sono gli anziani e le anziane i protagonisti degli scatti. L'iniziativa è promossa nell'ambito di CrossCare 2.0, progetto cofinanziato dall'Unione Europea nel programma Interreg Italia-Slovenia, guidato dalla cooperativa sociale Itaca con il servizio sociale dei comuni Livenza, Cansiglio Cavallo, Comune di Sacile e Fondazione Vaglietti. Maura Murgia è care manager per la cooperativa Itaca. La cooperativa Itaca, con il progetto CrossCare 2.0 in particolare, ha il desiderio di disseminare sul territorio quelle che sono le tematiche relative all'invecchiamento della popolazione e in particolare porre il focus sulla fragilità, quindi sull'accoglienza delle fragilità che non eliminano la dignità della persona ma cercano di illuminarla con una bellezza e con un racconto anche artistico come questa mostra ci propone. Elisa Pascotto, assistente sociale del servizio sociale Livenza Cansiglio Cavallo. Il valore di questa mostra, che si chiama Ombre e Luci, è quello di sensibilizzare il territorio nelle tematiche della demenza, dell'invecchiamento e della terza età. Perché luci e ombre? Perché anche nelle ombre, cioè nel decadimento psicofisico degli anziani, bisogna guardare alla luce. La luce è l'unicità della persona. Oltre al percorso fotografico, nella vicina stanza della dispercezione sarà possibile sperimentare sulla propria pelle le difficoltà percettive che colpiscono chi è affetto da demenza. L'esposizione sarà poi a Trieste dal 28 settembre al 6 ottobre e a Lubiana dal 7 al 18 ottobre. Sacile, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ti proteggerò, abitare insieme la fragilità, e questo è il titolo del 32esimo convegno annuale del Centro Balducci di Zugliano, che si svolgerà dal 24 al 29 settembre e avrà al centro il tema della cura. Nelle giornate del convegno, gli ospiti, provenienti dal mondo ecclesiastico, dell'arte, della psichiatria, del giornalismo e della comunicazione, della filosofia e della teologia, si confronteranno sui temi del limite e del suo al di là, della fragilità, a partire da quella di genere con i femminicidi che continuano a essere troppo frequenti, del mondo giovanile, delle migrazioni, della salute mentale nel 100° anniversario della nascita di Franco Basaglia. Alla serata inaugurale del convegno, giovedì 26 settembre, parteciperà anche l'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, ospite per la prima volta al Centro Balducci, oltre al teologo Vito Mancuso, alla giornalista Gabriella Caramore, alla filosofa Selene Zorzi e al politico e attivista nel sociale Luca Trapanese. Alcuni appuntamenti di oggi. A Trieste, Riccardo Cepac e Lorenzo Tommasini introdurranno Stefano Carrai, curatore del saggio di Giacomo De Benedetti, Saba, scritti e saggi 1923-1974, recentemente edito da Carocci Editore. Alle 17, nella sala di lettura della libreria Minerva di via San Nicolò. Nella biblioteca comunale di Monfalcone, Roberto Kovacs, in dialogo con il presidente del Consorzio di Sviluppo Economico della Venezia Giulia, Fabrizio Renato Russo, presenterà il suo ultimo libro Monfalcone Mediterraneo, storia del lavoro nella città delle barche, editrice Paolo Gaspari, alle 18 con ingresso libero. A Meduno il convegno Contributi e bandi per l'agroalimentare in Friuli Venezia Giulia, dalle 14.30 a Palazzo Colossis. Uno schedario di grande valore non solo scientifico ma anche culturale e divulgativo è il database virtuale sugli eventi, luoghi e protagonisti della resistenza in Friuli Venezia Giulia, a cui ha lavorato un gruppo di ricercatori dell'Università di Trieste grazie a un assegno di ricerca finanziato dalla Regione. Un dizionario online concepito come estensione ed ampliamento del dizionario della resistenza alla frontiera Alto Adriatico. mediatica 1941-1944 pubblicato 2 anni fa a cura di Patrick Carlsen. Il progetto sarà presentato oggi alle 18 al Circolo della Stampa di Trieste. I lavori della stesa dell'asfalto drenante nel tratto dell'autostrada A4 tra le aree di servizio di Fratta e il nodo di Portogruaro hanno subito un'accelerazione in questi giorni, favorita anche dal miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nel corso della chiusura in programma sabato notte per l'abbattimento del cavalcavia che collega Pradipozzo a Lison in comune di Portogruaro, verrà completata la prima fase di questa attività e da domenica, alla riapertura dell'autostrada, chi percorrerà il tratto non dovrà più impiegare lo scambio di carreggiata. In chiusura ricordiamo che sono disponibili da oggi i biglietti per la serata evento di Sons Europe che quest'anno è in programma sabato 19 ottobre dalle 21 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per la serata conclusiva possono essere acquistati sul sito Viva Ticket, poi dal 10 ottobre nelle rivendite autorizzate alla biglietteria del Teatro Nuovo. Sons Europe è il festival europeo delle arti performative in lingua minorizzata, termine che indica le lingue cui viene negata la possibilità di essere utilizzata in maniera normale e paritaria in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Federico Comar e Andrea Fontanot. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, da Daniele Lettic e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.